Avanti, chi è? Avanti, chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Bacchisio, attenzione Bacchisio. Inu. Chi è? Chi è? Chi è? E boia. Ma ce la facciamo a parlare? Aiuto. Luca. Chi è? Babbo Natale. Chi sei? Mica che qua gatti non ce ne sono, mi. La lo casino. beh, buscia buffi. Basso sono. Già va bene. Ma stavi provato tu a vedere se stavo scelto. No, lo vedo io. Era proprio l'altro, non so. Cazzo, tutta la sera, cazzo, queste qua, pensavo... fracassando le palle, cazzo, qua. Cazzo, schiacciano portante. Ma molto da schiacciare le portante, c'hai. Ho detto, cazzo, vattene a San Paolo, cazzo, gli ho detto. A schiacciarsi la tomba, cazzo, gli ho detto. Vai, lì ce n'è posto quanto ne vuoi, cazzo, di posto. E tu puoi schiacciare tutte le portante che vuoi. Cazzo, ho detto, cazzo, sei un giramento di scatole. Sì, magari l'ho fatto apposta, là. Cazzo, ce l'avevo acceso dalle tre, no? Mi stavo riposando, cazzo, tra. Appena mi sono girato, ho detto, i coglioni, ho detto, cazzo. Non è altro posto da andare a girare a balle. Brutto, maleducato non sei altro. Cazzo, ma io ho detto maleducato. Ehi, Antonello. E beh, Giuseppe. E chi è? Chi è all'apparecchio? Babbo Natale, buonasera. Mica è Natale finito, mi. Buona Befana. Anche la Befana è finita. C'è cosa, c'è? Pinocchio c'è. E la ora, buonasera Pinocchio. E beh, Antone. Sono stanco morto. Stavo facendo il corso oggi, per carità, cazzo, domani uscirò alle 4:30-5, se non sbaglio. Poi noi ci sentiamo questa settimana, dovrei uscire prima, se vediamo, dopo 12 e mezzo già ti chiamo. Giuseppe, come andiamo? La buon'anima, José, non ti fai più sentire, no? Da quando stai frequentando il Finocchi, cazzo, non ti fai più sentire, no? No, stavo facendo l'amore e l'ho terminato adesso, vero Antonetto? Allora, l'amore con conto. Oi. Tutto sparato stai usando, Giuseppe? Tutto sparato? Stai andando abbastanza bene qua. E dove sei? Che zona sei? Giuseppe, te l'ho detto 2000 volte, lo c'hai, lo alzame c'hai. No, non c'ho l'altame, no, a volte diciamo che ho già capito, già va bene così. Cazzo anche a me, dai. Giù ottava sono, Giuseppe, ottava. Già lo so, adesso ero sopra pensiero. Sopra o sotto? Sopra pensiero. Meno male. Hai sentito Antonio che era sopra pensiero? No, non era come il tablet. Stavo uscendo fuori in testa con un cazzo di computer, Antonio. Lui non ho tolto piede. Capito, un bel lento, Lui ti fa di fare... cambiare i dischi, non lo so. Sono qualche anno là, mi sembra che c'è uno di quelli lì, per portatile. E se lo parlo, adesso quando lo do a Gabino fammelo ripristinare il computer, vediamo un po' cosa mi dice. Va bene, che lo fai installare e quelle memorie che ho trovato così. Adesso vediamo un po'. E allora avanti, amico di ottava. Qua sicuramente non ti ricordi neanche chi sono, di la verità. con tutto quello che ho in testa, cazzo, pensando a dentro e manca, cazzo, e qua, lascia perdere. Non mi ricordo neanche come mi chiamo io, cazzo, figurati se mi ricordo come chiamo gli altri. E allora siamo in due, dai Giuseppe, siamo in due. E allora Antonio, cosa hai fatto oggi di bello? Nulla, non ho fatto proprio niente oggi. Mi sono coricato e mi ha giugliato lui. Ma non sono, cazzo, brutto. Ho dovuto giovare la mattina presto, alle 9, per svegliarmi. Poi ero maglietta corta e da una cosa all'altra ci abbiamo un freddo. Sentivo già quello che mi dice stamattina presto, figurati. Poi ho detto, ma non piglio niente, non prendo niente, e invece ho preso lo spirito poco fa. Almeno mi passa subito. Era già dolori ero, da ieri. Che sono uscito a prendere quella roba a Giampiero, che voleva la tangente tutti i giorni, capito? Sono uscito a comprargliela. E ne ha aiutato una a lui e l'altra come si chiama la bandante e per me ero rimasto 3 euro, una cosa del genere, me lo bevo di notte a cena. Ma come aperitivo l'hai preso, no? Sì, l'aperitivo, vabbè. Chiara, no, ieri mattina mi ha fregato il coso, ho bevuto la coccata da lanciata, adesso non so se devo mi ha abbassato la pressione, me l'ha sollevata, dove che fischiava. E non ce l'ha versa, mi sentivo tutto messo male. Allora, dopo che sono andato allo spizzo, sono salito su, mi sono bevuto la birra con calma, piano piano, e mi sono ripreso. Capito? Ma tu lo sai che la lanciata fa male, Bevi un bicchiere di vino, un bicchiere di birra, e diventi giovane e bello, vero Giuseppe? Beh, è come dice il proverbio dei medici, un bicchiere di vino al giorno toglie il medico d'intorno. Hai capito Antonè, fai così. Non mi sono accidente con la lanciata, perché non me l'ha mai fatta, guarda, una cosa così. Capito? Ho bevuto un bicchiere e subito immediatamente mi ha fatto male ieri. Allora sono accomodato a bere. Ho fatto piano piano, salendo, perché mi stavo venendo anche il coso addirittura, affanno. Sono seduto, mi sono voluto la birra piano piano, dopo ho preso, sono salito a casa, e poi sono sceso da mio fratello a pulirlo, e dopo gli ho dato cenato e mi sono bevuto le altre due lattine, che mi sono due o tre lattine, perché avevo, che mi erano rimaste, avevo pigliato 5, quindi. E magari indigesto, capito? Ho trovato indigesto, magari debole, succede, beh, succede. La giornata magari ti trovato indigesto e poi è capitata la lanciata che ti ha fatto male. Non è novità, no? Scusa, magari ti ha trovato debole anche. E ti ha pizzicato. Avanti Giuseppe. Può darsi che l'ha trovato a cazzo indisposto e gli ha fatto male, capito, no? Quello è il problema, Antonello ce l'ha di coso, ce l'ha che lui, per ogni cosa, già, per i problemi che c'ha, basta un colpo di freddo, oppure una cosa, cazzo subito rivengono questi dolori. Poi la freddura è... La freddura è mala, ma siccome capita pure a me, magari il giorno sono indigesto, bevo qualcosa e rimane tutto il giorno male, capito? Insomma, debole e così via, tutto qua. Oh, Iulia, bene meda, avanti Antonè. Avanti sono, avanti capo. Allora Giuseppe, cosa stai combinando? Ti stai mettendo col tablet almeno? Col tablet sì, con il computer piccolino è un po' divertente, però è con quello che stavo stasera, stavo uscendo pure in testa con quel cazzo di computer, a farlo accendere, cazzo qua, Antonio lascia perdere, non ci voleva Cristo cazzo che per farlo accendere, cazzo, Infatti da un momento è tuo fratello che c'è uno di quelli a base, capito? Lo fai controllare la gavina, ti fai mettere le schede, conosco le rocce che io e utilizzi quello, ti compri la pennetta però Giuseppe, sennò se no senza pennetta non puoi fare nulla, perché il segnale wifi non ti arriva, capito così? Capito? Il monitor da agganciarli a quel computer di quelli che ricordi, quelli vecchi, quelli base, con la colonna, come lo vuoi chiamare, c'ho uno di quelli, c'ho. Allora utilizzi quello, utilizzi, è molto meglio la portatile. Già lo so, adesso vediamo, adesso quando lo trovo a Gabino glielo dico, vedi, cioè me lo controlla e vediamo cosa cazzo gli è successo a questo cazzo di comune, perché te l'ho detto, non ho più acceso, forse, non lo so, sarà un mese e mezzo che non lo accendo, dunque non so cosa cazzo gli è successo, come la notte questa voi capite, mi ricordo che era veloce, capito, quello quando l'ho preso era veloce, la cosa funzionava benissimo, c'era un Petio 7 Windows 2000, adesso vediamo cosa, quando è libero Gavino glielo porto e me lo faccio controllare da lui. Vedi che in pratica non ti dà le ordini, ti appare solamente il cane, certo non ti appare nulla, capito, delle funzioni che deve fare che ci sono, quindi è anche lento tu poi al limite ti fai mettere Facebook, roba così, capito, una volta che gli puoi scaricare quel programma con la pennetta. C'è la pennetta di andente, perché prende tutti la pennetta. E adesso vediamo cosa mi dice Gavino, quando è disponibile glielo porto a casa sua e me lo faccio controllare e vediamo un po' cosa mi dice. Oh, Antonello, cosa fai che ti metti la base da fusare? Per questa parete, bene? Con la cosa che c'è la base da fusare? Sì, cosa hai preso? Lo metti il fatto, cosa hai preso? Quella parecchio bene là. Sì, va bene, mi ha fatto un lavoro in quella parecchio lì. Io ho fatto la quotazione del 2009, capito? E se male con il microfono, mi cresce male, è perfetto. Lo stiamo portando, cioè con la 4 va bene, esce benissimo. Ok, dai. Faccio qualcosa, ti avverto e lo prendiamo così lo piatto, perché con la base mi viene meglio, così allungo la mano e batto, mi tengo il microfono in mano, ma così è una scocciatura, capito? Sì, già lo so, è una scocciatura. Bene, oh Giuseppe, bene, ascolti tu questa antenna. Sì, che ti ascolto bene, è abbastanza forte, mi sta arrivando a bomba. Sì, oh Giuseppe, cambia antenna adesso, fai un attimino, parla che dopo ti chiamo io, dai. Eia, ma quella in gommino c'hai? No, c'ho un altro tipo di antenna, dai, questa è una che già lo sa Antonello, dai. Parla Antonello, poi ti chiamo io con l'altra antenna, dai. Vabbè, dai, prova. E allora, torna. Devi tutto, gli sapevo che... Adesso mi stavo controllando... il numero del superalotto, per vedere se abbiamo vinto, mi pare ci lecca. Un attimo Antonio, guarda questo passaggio Giuseppe, come mi ascolti? Prova. Guarda questo passaggio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dai. Questa mi sembra un po' più bassa, l'altra era molto più forte. Ok, mi interessava solo questo qua, dai. Hai capito Antonio, questa qui è quello stilo che ho sopra l'antenna della televisione, l'altra è quella che ho piazzato quando tu eri a casa, là, hai capito, dai. Ok, metto l'altra, dai. Cappa, va bene, già esce bene. Cambia. E ti stavo dicendo, stavo guardando i numeri del superalotto per vedere se abbiamo vinto, ma mi pare ci lecca. Non è tutti i giorni che sei fortunato, no? Bisogna andare lì, giocare il numero all'otto, capito? Non superare l'otto. l'ho presa lì quella schedina lì al rifornitore, hai capito? Solo che sono usciti i numeri bassi, sono usciti 11, 25, 35, 37, 85, 67. E un po' ci avevo legato vicino a due di blu, cazzo, quindi non l'ho più visti, no? Li ha fatti evacuare quei cosi. L'ho preso 5, tutti i 5 li ho vinti, cazzo. No, ma di un numero, cazzo, guarda, di un numero, no, è una cosa, qua nella prima colonna, cioè, ho sbagliato di un numero, hai capito? Invece di avere 11 c'ho 12, invece di avere 25 c'ho il 23, hai capito? Ah, Giampiero, chiedi, ti telefono, girami i numeri dell'otto. Poi già te lo dici lui, tu prendi il giochi un euro, hai capito? E vabbè, adesso la prossima, quando vengo già gliele chiedo. Fai così, già va bene. Per carità. Ma quello, cosa, chi era, Marino, sì? Eglia. Ah, Marino era. Eglia, ti ho detto di sì, che era Marino. Ah, ecco, adesso mi è venuto in mente. Hai visto. E adesso, non ci stavo neanche pensando a lui, eh. Ma che cavolo di una vecchiaia? Marino, sai, più vecchi, più gli anni passano, più ci stiamo ricoglionendo, Ma io non sei da solo, mio Giuse, non sei solo. Io sono peggio di te molte volte. Vabbè Mari, vabbè che tu c'hai qualche anno più di me, cazzo. Forse ne hai più di me, però anche a me la memoria non è che viene e va, hai capito? Vabbè, qualche anno, non molto, no, ma io come fisiologia ho molte volte, secondo me, mi guarda, ero sul camion anche l'altro giorno, mi stavo salutando, poi ho detto, boh, ma chi è questo qua? Boh. Un giorno mi hanno fermato, stavo parlando, ma mezz'ora parlando, guarda, mezz'ora, mi conosceva abbastanza. Ok, l'ho salutato, me ne sono andato via, poi ho detto, ma che cazzo è questo qua? Boh, ma non l'ho riconosciuto, figurati, ma quando mi sto ricoglionendo, avanti non è. Per carità. Mari, ma quella questione là, procuratemela, sì. Tranquillo, già, guarda, se devo stare ad Antonello questi giorni qua, forse la settimana, e la passo a Antonello, la passo. Adesso lo controllo qua, l'ho detto, ce l'ho e tra l'ho. Sono davvero, non ce l'ho e non te l'ho. Vabbè, no, già non c'è problema, dai, già no. Già non te le metto fretta, là, no. quando sei disponibile già non ce l'è problema, al limite già ci troviamo al circo, ci beviamo una cosa, dai. Tranquillo, già ce l'ho, sì, vai tranquillo che già ce l'ho, non preoccuparti. Quasi tu ce l'avevi la 52, ce l'avevi, così mi hai detto. Scappa. Ok, non preoccuparti. Ok, mi ha dato il messaggio, sicuramente è pronto la cena, mio nipote ha mandato il messaggio. Ciao Giuseppe, hai sentito, saluto in casa. Ciao Antonè, ci sentiamo, dai. Ok, a domani, se tu va bene, saluto in ascoltoni, curati per noi, ciao, avanti Antonè. Ciao Marin, buona cena, buona a tutti e salutami in Corea, dai. Ci sentiamo dopo Antonè, dai. Ciu. Giuseppe, le oggi le mo così, rubo mai. Oh, sì. Ci sono, come tu hanno riporto, invece era un messaggio che mi hanno dato i nulli, controllare la lavatrice se finisce. Cosa che devi prendere da Claudio? Che apparecchio è? Adesso. E quella macchina che c'ha tutto da microfono, in pratica l'unica rimane dalla parte e in quanti c'è tutto di microfono, capito? C'è un mitelino, il sequenziamento digitale, eccetera, eccetera. È un bel apparecchio. Ah, per la 27? E più che altro vado proprio per la lavorazione, insomma, hai capito? Così questa zona qui mi rimane chiusa, capito? Perché la chiave nessuno ci entra. Allora che il salone è con l'antenna per macchina, quella che è. Se le faccio la commutazione, attacco la mattola in chiesa, la bianco, gli metto il coso fuori e gli faccio la commutazione fuori. Bene, veda. Bene, veda. Giuseppe forse andò via, boh. Fatto, invece dovevo partire il tornado, solo che io non va più bene, capito, il tornado, non è mancato c'è, quindi l'unica cosa è prendere voi, ma che sono così mai, mi ero un apparecchio così, metterlo in salone quando entra qualcuno, viene, l'apparato di mio marito è questo, basta, se lo guardano, lo accendo, sono controllo, intanto c'ho l'alimentatore, già visto quello che ho pigliato da 20 ampere, gli aggancio quello, voglio abbassare avanti. Lo metto in una mensolina e ho fatto il lavoro. Ah, esatto, è giusto. Giustissimo. Guarda Giuseppe, Antone, se qualcuno serve per i cacciatori, quelli due, quello per i cacciatori, quello io per le PLL, cosa si chiama? PLD, boh? E me lo ripetisco. E piene più di là. Qui vado a prendere la caccia, neanche io a qualcuno se gli servono, a qualcuno, e gli dirai tutti e due. Quali sono quelli gialli? No, non quelli gialli, gli altri. Quello che ti ho portato a controllare stavolta, sono i corti, no? Che tu mi hai dato l'alimentatore là. No, ho capito. Quindi vabbè, vediamo un po' se qualcuno si deve prendere la caccia, se si usa quelli. E si avvancia, gli bastano due, basta avvanzano. E anche uno scambio non interessa nulla, anche uno scambio va bene. Sì, anche uno scambio magari se qualcuno, lui c'è qualcosa che ti interessa magari, che non sta usando. Esatto, sì, esatto, va bene così, dai. Allora. Kappa, kappa. Yeah, va bene, già ne ho sbagliato qui, che sta fatta, va bene. Due video di attori, dicevo, uno, due, tre, li butti, ho preso a pensare. Uno, due, c'è anche la radio, li butti, come c'è Saone? C'è anche la radio AMFM inserita. Quando l'avevo trovato nella mondezza, il mio gatto a basso l'ho trovato. Quando abitavo in via San Donato, tu figurati quanti anni ce l'ho. Ho trovato questa cosa qui a fare casaletta, ho detto, cazzo, questo DVD c'ha la roba di raffreddamento dietro, la ventolina, e tutti questi attacchi, non mi vedo che si agganciano le case. Prendo e lo porto via San Donato, gli aggancio due casse con l'amplificatore, cazzo, una bomba era a casa. Ma siamo presenti, i rumori quando venivano, vendono, ti do 50 euro, ho trovato che Marepino si muove, gli ho detto, di questi in giro non c'è neanche uno. Sì, grazie, io già, che butta un po' quelle robe intanto. La ragione, il maestro deve dedicare dietro. C'ho un, non so se è la PlayStation 1, la 2, la 3, boh, non so, devo controllare, c'ho una PlayStation da, con una busta piena di cose, di film, di giochi, film, mi mancano solo i cose, i joystick, quando vengo già da porta e la guardo, se c'è qualcuno che le serve. Ma non è quello il problema, è la trappa del joystick. A città mercato vendono i componenti per quella cosa, anche separati. Esatto, ce l'ho ma non ne faccio nulla, ce l'ho appoggiato a mezzo ai piedi. Poi se c'è qualcuno che ne serve, serve scambio a me, o via qualcosa, oppure uno scambio, mi va bene lo stesso, capito? Sì, non c'è problema. Cosa mi ha... Mi sono guadagnati 4 di quelle PlayStation, c'è la 1, la 2 mi sembra fino a... L'ultima che si è comprato la 4, per i figli. Poi da poco si è comprato l'aggeggio per vedere per giocare lì col televisore, figurati. Le della, della team. Non mi ricordo io quella. Io ogni tanto delle, per la mia riposta io lo prendo, no? Ce ne ho preso l'ultimo, l'ho presa io, abbiamo riposto l'ultimo, tutto io l'ho preso veramente, una muglia. Non mi ricordo quale l'ho preso, la, quasi l'ultimo o la penultima. E riprende, si collega con l'altra mia riposta, che è Maddalena, con l'amico che abita all'altra parte del mondo. E stiamo sempre giocando, capito? Si chiamano, parlano, giocano e si divertono, passano un'oretta, si mette le cuffie, lo vedi parlando, lo vedi, tranquillo e sereno. Ah, non mi dire il tipo, vedi, io sono ignorante con le materie, Antonello. Sì, quella di giorni ce l'ha me, Mirko, ce l'ha me riposte. Sta con il telefonino, in cuffie, poi quando giocavo in due, in tre, anche in quattro, capito? E in quel tavolo di videogiochi. Ah, io ho detto, voi siete di testa, ho detto, perché mi ha detto, ho questa roba qua, ho detto, se continuate così tutti e due, fate sempre un favore intanto uno con l'altro. Allora prende la mano e gli è stata la PlayStation e è stata. Capito? Quando si è sempre attaccato ai videogiochi, oh iaia, a parte di rincoglionire, fare sempre così, capito? Esatto, esatto, già quello lì sì, si accende il cellulare, si mette le cuffie ciccia, e si mette, vabbè mio nipote prima si fa i compiti, prima c'è la sua calcio, si fa i compiti e poi si attacca, se no non ne usa, anche mia moglie è tipo di Hitler, capito? Prima c'è la scuola, ti fa i compiti e poi giochi, se no zero, non te accendi. Se vuoi che mi riporta fortunato usare quella furia lì, gli ho detto. Noi quando eravamo giovani usavamo il pallone, gli ho detto, e facevamo amicizia, era molto, molto diverso. Questo pensiero mi stanno rincoglionendo, gli ho detto. E tu cerca di uscire in bici, sei grande, vaccinato, c'hai già 12 anni, capito? Esci in bici, poi quando sei più grande ti cerca una volta ti finanzi, poi ti compri il motorino, te ne vengi il motorino e a prestigio ce la prendi in culo. Minimo, Antonio, minimo. Vediamo se c'è ancora Giuseppe. Giuseppe, partiamo di Giuseppe. Quello lì ha chiuso, Antonio. Sì, forse l'avevo chiamato e ha chiuso, cosa ne so. Abbiamo preso anche a Popeye. Sicuramente. Ma cosa sta usando? Portate lui? Sì, sta usando l'otto, come dici tu, preciso sta usando. Aspetta, arriva fortissimo qua, Questo dicevo che escono benissimo quelle parecchi. È un peccato regalarli, conviene tenerseli quelli. Ci avevano sempre, capito? Vuol dire, sì. Se qualcuno ti vuole cercare, tu te lo metti in uomo, metti la moto carrozzella, pigli e favetti. Io l'altro giorno ho attaccato durante la magnetica nella Polo e mi ha portato le V520 Plus. Usciva benissimo, usciva dalla macchina. Figurati, caspita, arriva, non lo immaginavo questa autorizzazione lì, è fortissimo, proprio arriva bomba. E l'antenna cosa stavo usando? La sua originale oppure un esterno? No, la sua originale. Il domino, caspita. Guarda, arriva proprio a fondo scarpe, arriva, figurati. Forte. Sì, la tua già è buona come lui, capito? C'è una bella zona, il problema che a installare le antenne è stato un casino, devi stare ben attento, capito? Perché se sbagli poco ci scendi e fai un volo di 50 metri che fai. Non è andata come quelli di fare come hai fatto tu me, metti un legno e nessuno ha più spesso di sopra il petto. Non voglio capire quello la madre. Il giorno d'ora che si rompe l'antenna TV che non prende più niente, lo voglio vedere pagando la gru, c'è già di conto già. Mi sembrava più per fare uno di quegli affari pensa di essere perfetto, uno due, in modo che ci fuori e sale a fare i lavori. Capito? Ma dov'è la zona del monte? In quale punto del monte? Ma a parte che Valdetta o all'interno? chiamato via Montefurgo, è lui. A Montefurgo, così? Che via? Ah, cazzo. Dai, gli sono buono lo stesso, dai. Certo, perfetto, ciao, ciao, il senso, la zona del mare, Patarola, vedi tutto là lì, proprio a Proves. Tutto perfetto, c'è una bella zona, il problema è che non ci può portare niente in quella cavolo di cose, perché è pericoloso. E ho detto io a Giuseppe, ho rivendato l'appartamento di quel condominio perché è un condominio che non paga solo insieme a lui e l'altro, gli altri non pagano nulla. C'è l'ascensore, quindi devo anticipare lui per salire su, capito? E quindi le spese sono a carico loro. Sono, io ti dico come pigli, vedi con l'appartamento ti pigli la villetta. Ho un altro appartamento al sasso di Giovetta. Mi piacere solo questo poco. Ah, ma non è casa popolare, pensavo che era casa popolare, era una casa privata, così. Sì, era una casa privata, eh. Ah, io pensavo che era casa popolare, capito? Tutto qua. Vabbè, se in caso io, Antonio, se in caso serve punteggio, qualcosa, 10 elementi come per anni io ce l'ho e non c'è problema, se ti serve a te o a lui. Scendete, le prendete, usate come vi portate, non ti mette per problemi, io ce l'ho su messi dietro e c'è il tanto per fare il castello, va benissimo, guarda, 10-20 ci ho, figurati. Ehi, potete anche, se non si faccia, già sono un giorno, non le piace a voi, quindi li potete, mamma mia, io metto di quello sotto il legno, accolato al muro, e che se poco può costruire, quindi potete tutto ti ammazzi. Capito? Non so cosa vuole, può fare, chiamare qualcuno con la scala, sarà soprattutto, ci mette un'altra la pipetta, c'è ancora la TV, un altro palo, e ci mette gli altri del barattino sopra. E poi dopo di te, una volta installato, se ne dimentica, perché non può più scenderla, capito? Una volta che si è fatta, non ci può più salire, soprattutto così. Perché c'è proprio nell'angolo del muro installata, capito? Hanno fatto un coso di cacca tattica. Come al solito. Dopo diceva, ma con l'antenna che tu hai staccato, utilizzando la serie, cosa faceva con l'antenna che tu hai staccato? Poi c'era per il VHF, ce l'hai utilizzando oppure ce l'hai staccata, no? Ma è che c'è quella roba bianca. Beh. L'ho staccata, ce l'ho qua in camera, non sto utilizzando quella. Ah, non la sto utilizzando, ok, no. E che frequenza c'è qua? La stessa di quella bianca che c'è tu, la stessa frequenza, precisa. Ok. Quella lì ce l'ha, la stella, la gemella ce l'ha, se non sbaglio, qualcuno che ha la veloce, la gemella, eh? Sì, io sapevo che c'era poi con l'antenna lì, sta usando lui, se non mi ricordo male, o chi era. Mi sta usando l'antenna guardate, quella che ho trovato io, la bianca. Tu ce l'hai X30, c'hai, adesso. La X200 in pratica è più lunga della vista, è molto più lunga della X30. C'è meno carica in pratica. Ma la tua c'ha meno carica, vuol dire? Sì, c'è meno carica, sì. Ok, no, perché mi sembra che la tua l'ho vista, piazzata giù alla terrazza, l'ho vista, su un tetto. Proprio la tua gemella ho visto, No, c'è più che perché io ho l'antenna agganciata dietro la mano, ma ce l'avevo piazzata, capito? Non riuscivo a farlo uscire, non ce l'ho verso. Ho provato anche la X30, era la stessa identica cosa. E poi con Franco, mi sono detto, dice, guarda che devi distanziare con l'antenna lì, dall'antenna del barattino almeno di 5-6 metri. Adesso la valla, dice, metti un paletto da 2-3 metri e vedrai che c'è bene. Non l'ho mai provato, adesso quando sistemerò la gaffa dell'antenna del barattino che la metto dall'altra parte, trasferisco la mano in un lato e nell'altro lato ci installo la X200 e in mezzo ci metto la direttiva installata con tre piedi. in modo che mi dimettono di quei motori dell'antenna TV, capito? E così la posso utilizzare e la posso buttare dove voglio io, capito? Con quanto box. Ho capito, sì. Ascolta, quello che ho io non ti va bene, no? Quello che c'hai tu che cosa? Il box. Il box? Sì, quello che ti ho fatto vedere io qua a fianco, qui nella cameretta. Quindi, vabbè, io non c'ho il motore, per quello che... Cos'è, il motore c'ha il suo coso, così è. Allora, quanto muro che se lo capisci. Guarda, quando scendo il motore della testa su, facciamo la prova, scendiamo giù la prova, siccome sono attacco a 5, mettiamo 5 cose e vediamo cosa succede. Se questo box funziona, che va dentro a sinistra, ti tiene il motore quello lì, ti metto proprio dentro un sistema che giri, capito? Cos'è la tua utilizzi? Fa destra a sinistra, vabbè, meglio di niente, già è. E ti metti con la piccolina che ti agganci, quella che ti ha trovato la cavata io. Sì, ti sento, avanti, chi sei? Chi sei? Giulio, la sto facendo la pro. Avanti? Ciao, Gesù. Giulio. Giulio, mi senti? Sì. Ciao Giulio, ben sentito, Marino, sono avanti. Ok, no, guarda, non ci crederai, io anche stamattina stavo pensando a te, ma tutto a posto, Giulio. Anche stamattina stavo pensando a te, fra una cosa e l'altra, poi ci volevo fare una bassa, mi sono anche dimenticato, fra il tabacco, c'era un corso di della sicurezza, mi sono dimenticato. Tutto ok Giulio, sì? Io, sì, ah. Qua stai utilizzando adesso, scusa. Sì, ma forse ti sento più basso delle altre volte, se non sbaglio. Ah, comunque ti sento bene. Avanti Antonè, per Giulio. Prima si mettiamo un setto, segnale 3-4, 2-3-5, buona, a voglia. Ehi, vabbè, il segnale non c'è frega nulla. Interessante che sentiamo la voce. Avanti giù. Ok, dai, saluto però. Ci sentiamo casomai domani. Ciao Marino, ciao Antonello, domani, ciao. Ci prendi pure Antonello. Ciao Giulio, ci sentiamo. Allora Mari, stavi bene, buona cena, buon tutto. Avanti Mari. Ok, ciao Giù, mi ha fatto piacere sentirti. Dai, guarda, ti volevo chiamare anche stamattina, guarda. Per un periodo non ti sentivo, poi franco dell'altro anch'io ero mezzo incasinato e non ho avuto tempo di chiamarti. Ok, comunque ci sentiamo, siamo tutti in casa, va. Ciao ciao, avanti Antonè. Sì, la cappa, andiamo bene, andiamo bene. Ok. Questa cosa è sparita Giuseppe, tu, che volte volte l'hai chiamato la mala magna. Adesso che si mangia le carri e poi torna. Ah, così fa lui. Ma così mi puoi, intanto si fa il giro su Cibitata, se c'è qualche ragazzina, ma non la capa nessuno. Se qualche più va a comprare le carri normali. Da l'una 40. Prima era 4-5 lo usava, adesso non c'è più nessuno. O vabbè, sui canali Italia 7, cosa vuol dire, 6, eccetera, eccetera, c'è della gente. Non me la fa tenere da 30 persone, e quando parli mai, e quando ti fanno mai entrare. Ah, con quel sistema del cellulare, così stai dicendo, no? Oh, mezzo casotto, no, è mezzo casotto se non sbaglio. Sì, per 30 persone, poi ci sono i calabresi e i siciliani che non ti fanno entrare, capite? Parlavo tra loro, un cazzo ti fanno entrare, Marco Botto, della strategia ce ne sono solamente tre, due di Cagliari, una ragazza di Modena, non c'è, che vuole, e poi basta, e qualcuno da c'è a Sassari anche, che lo utilizza, ma poche volte. Ah, ecco, al solito. Ok, Antonè, io adesso c'è il micro, ti saluto, va. Ciao Antonè, ben sentito, mi ha fatto piacere. A domani, se coincide, ci sentiamo. Saluto tutti gli ascoltatori, anch'io faccio quelle di là. Ciao, ciao. Ciao, ma ci sentiamo. Alla prossima. Ok. ciao ciao. Ciao, ciao.